Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. La maggioranza si sbriciola, Bossi annuncia verso la fine dell'alleanza PDL-Lega. Il governo frena le ruspe in Campania per abbattere le case abusive. La Grecia chiede l'attivazione del piano di aiuti, è una necessità nazionale, ha spiegato il premier Papandreou. Balotelli contestato dai tifosi ad Appiano Gentile, applausi per Mourinho. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Il giorno dopo la rottura Berlusconi-Fini, consumatasi davanti alle telecamere e davanti a tutta la direzione del partito, oggi le parole durissime di Umberto Bossi. In diretta da Roma, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Inevitabili le conseguenze nella coalizione di governo dello scontro pubblico di ieri tra Berlusconi e Fini. Al termine del Consiglio dei Ministri di questa mattina il Cavaliere si è intrattenuto prima con Bossi, poi con diversi altri componenti dell'esecutivo, tra questi Scajola e La Russa, ma è dalla Lega rimasta in silenzio ieri che arriva una forte accelerazione al dibattito e lo stesso Senatura a parlare. Siamo davanti a un crollo verticale del governo e probabilmente di un'alleanza, quella di PDL e Lega, dice Bossi, che aggiunge Fini, invidioso e rancoroso per le nostre ripetute vittorie, a rinnegare il patto iniziale e non ha fatto altro che cercare di erodere in continuazione ciò che avevamo costruito. Berlusconi commenta ancora: il leader del Carroccio avrebbe dovuto subito sbattere Fini fuori senza tentennamenti invece di portarlo in TV dandogli voce e rilievo. Per Bossi la priorità comunque resta una: andare avanti con il federalismo. Dai finiani intanto oggi si conferma la fedeltà al Popolo della Libertà e la volontà di contribuire al dibattito interno. Ascoltiamo Bocchino. Noi siamo convinti che si debba lavorare per la tenuta, il rafforzamento e il potenziamento del Popolo della Libertà, per la tenuta, il rafforzamento e il potenziamento dell'alleanza con la Lega, ristabilendo i ruoli dei due partiti, tenendo presente che il PDL ha oltre 3 volte i voti della Lega e quindi deve far pesare questi voti nelle politiche di governo. È questo che noi chiediamo all'interno del partito e lo chiediamo rispettando le regole della democrazia interna. Questo dunque per quanto riguarda i leader dei partiti, pezzi grossi, cosa hanno pensato invece ieri delegati alla direzione del partito, la cosiddetta base. Sentiamo queste voci raccolte ieri. Come ha vissuto questa giornata? Proveniendo dall'esperienza di Alleanza Nazionale con fortissimo imbarazzo, perché non ho condiviso in nessun aspetto il tono, il modo e il contenuto della relazione, dell'intervento di Fini. Gli umori sono buoni, poi sai, una discussione che spesso è animata, spesso è serena, come succede sempre in questi casi. Si ricomporrà questa divisione? Io credo di sì, anche perché non ci sono, non c'è sostanza, capito? Abbiamo assistito in diretta al suicidio politico di Fini. Se questo può diventare l'inizio della fine del PDL, lo vedremo. C'è possibilità secondo lei di ricucire? Non lo so, io credo che le strade anche a livello personale oggi siano fortemente segnate. Oggi si è rotto qualcosa che difficilmente si potrà ricomporre nel corso dei prossimi mesi. Io spero che si ricomponga tutto, perché la volontà oggi di dare delle risposte al Paese, soprattutto in tema di riforme economiche, e soprattutto i politici dovrebbero, come spesso io faccio politica e faccio, stare più in mezzo alle persone e capire quali sono le priorità, perché alcuni atteggiamenti rispecchiano una politica che non c'è più e che soprattutto non appartiene più alla mia generazione. Lei come la vede? Beh, certamente non bene. Oggi non è una grande giornata, credo, per un partito che rappresenta quasi il 40% degli elettori italiani. Riesce abbastanza incomprensibile quanto sta avvenendo. L'auspicio è che si possano rasserenare i toni, ma le speranze non sono molte. Sinceramente, certe volte anche nelle migliori famiglie, nei matrimoni più riusciti, quando l'incompatibilità di carattere aggiunge limiti estremi, forse è meglio dividersi per il bene di tutti. Queste dunque erano le voci raccolte ieri alla direzione PDL. G8 all'Aquila, notizie totalmente destituite di fondamento, così il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola commenta le notizie di stampa secondo cui i magistrati di Perugia starebbero indagando sull'acquisto di una casa della figlia del ministro, comperata con fondi riconducibili al costruttore Diego Anemone. L'unico immobile che la mia famiglia possiede a Roma, precisa Scajola, è stato acquistato con regolare contratto ed è stato pagato con un mutuo e con un bonifico dal mio conto corrente. Stamattina il Consiglio dei Ministri. Andrea Viali, quali le decisioni? Sì, Piera, quello di oggi è stato un Consiglio dei Ministri lampo, è durato meno di mezz'ora e nel corso della riunione è stato approvato un decreto legislativo che punta ad aumentare la concorrenza nel mercato del gas naturale. In particolare questo provvedimento consentirà di realizzare nuove infrastrutture per lo stoccaggio del gas, che così potrà essere acquistato in quantità maggiori quando i prezzi saranno più bassi. Secondo il ministro Scajola, questo intervento contribuirà al calo delle tariffe e di conseguenza anche al rilancio della competitività del paese. Il Consiglio dei Ministri ha dato anche poi il via libera ad un altro decreto che, fra le varie misure, prevede anche lo stop fino a dicembre della demolizione di alcuni edifici abusivi che si trovano in provincia di Napoli, una misura questa però dalla quale sarebbero esclusi quegli edifici costruiti in zone con vincoli paesaggistici particolari. A te la linea, Piera. Grazie ad Andrea Viali. E sul provvedimento arrivano le critiche di Legambiente. Sentiamo dunque il presidente di Legambiente Campania, Michele Buonomo. È fatta, è male fatta, come dire, cosa molto, molto grave, perché darà nuovo ossigeno all'illegalità e alla malavita. A fronte di un tentativo di superare l'illegalità nel ciclo del cemento che da anni attanaglia la nostra regione, con conseguenze evidenti sul piano della qualità del territorio ma anche della sicurezza dei cittadini. Io credo che l'unico vero accordo che ci dovrebbe essere trasversale è quello di rilanciare l'edilizia sociale di qualità. Sarebbe possibilità concreta alle migliaia di persone che hanno bisogno di una prima casa, senza scappatoie, senza scorciatoie, che fanno invece solamente il gioco di chi ha pochi scrupoli. Gli abbattimenti di edifici abusivi avevano già preso il via ieri a Torre del Greco. Il sindaco di centrodestra, Ciro Borriello, al microfono di Anna Migliorati. Beh, noi ci atterremo a quello che dice la legge, chiaramente questa attività da parte nostra sarà interrotta, anche se il mio pensiero è che ormai si è creato un conflitto tra due interessi, uno quello della legalità e della giustizia, come se uno va a fare una rapina e poi dopo non va in carcere, dall'altra di carattere sociale e politica, perché abbattere 60.000 case nella provincia di Napoli diventerebbe un terremoto naturale. Quindi molte polemiche sono sul fatto che alcune di queste case abusive in realtà sono seconde case, ville. E su questo io sarei intransigente assolutamente. E come risolverebbe la situazione del pregresso a questo punto? Io credo che il buon senso ispiri, ci indirizzi a mettere la parola fine a. E infatti proprio ieri ho avuto un incontro in procura in cui ho deciso che tutti i nuovi abusi saranno abbattuti ad horas, che c'è la necessità assolutamente di proteggere il territorio, perché se solo per 3 mesi si fa un'attività del genere, credo che a nessun cittadino più venga il pensiero che si possa costruire abusivamente. È stato il lassismo di tutti quanti noi, insomma, di tutte le varie istituzioni nel tempo, che ha permesso lo scempio a cui siamo arrivati oggi. E forse c'è ancora una speranza per gli alberi voluti da Bado e Renzo Piano a Milano. Il comune aveva detto no perché troppo costosi. Se a Bado e Piano si mettono a disposizione di Milano, bisogna fare tutto quello che chiedono e non stare lì a dire la cosa più volgare, e cioè cercatevi uno sponsor. Lo ha detto Vittorio Sgarbi, entrando a gamba tesa sulla vicenda degli alberi in centro a Milano. La replica del sindaco, Letizia Moratti, è arrivata con un comunicato stampa che ribadisce che Milano non può farsi carico delle spese per la piantumazione di circa 3.500 alberi in 12 luoghi della città, con una spesa prevedibile superiore ai 10 milioni di euro. E dunque si cercano sponsor. Alcune multinazionali si sono già fatte avanti, almeno con i giornalisti, e si sono dette disponibili a sostenere il progetto. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Domenico Gabriele, il bambino di 11 anni morto a settembre scorso dopo essere stato ferito alla testa mentre giocava a calcetto. L'agguato fu compiuto la sera del 25 giugno 2009 a Crotone. L'obiettivo dei sicari, secondo l'accusa, era Gabriele Marrazzo, di 35 anni, che fu ucciso sul colpo. Ma i killer ferirono anche altre 9 persone, fra le quali Domenico, che morì dopo aver passato 3 mesi in coma all'ospedale di Catanzaro. Anche qui si parla di una bambina nigeriana di 5 anni, è morta dopo un intervento chirurgico per asportare un'ernia addominale presso il nuovo policlinico della Seconda Università di Napoli. La piccola Aio era stata ricoverata alcuni giorni prima per essere sottoposta all'operazione già programmata e che non presentava grossi rischi. La Procura di Napoli ha naturalmente aperto un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo. Il ministro della Salute Ferruccio Fazio invia invece gli ispettori. Questo accade invece a Milano. Due persone sono rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta in strada in zona Piazzale Lotto, a un passo dalla radio peraltro, con le forze dell'ordine. Al momento non si conoscono i particolari dell'episodio, si sa solo che durante un intervento dei carabinieri sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco e che due persone, un uomo e una donna, sono rimaste ferite. Mario Balotelli è stato convocato da Mourinho per la partita contro l'Atalanta di domani alle 18:30 al Meazza. Non è invece stato convocato Pandev per infortunio. Torna il campionato con l'eco della Champions League che nel bene e nel male rimbalza sulle cronache. Così Inter-Atalanta, anticipo di domani insieme a Palermo-Milan, diventa l'occasione per tornare subito a parlare, oltre che della volata Scudetto, anche del caso Balotelli, vero tormentone di questa ultima settimana calcistica. Il discorso Super Mario che Mourinho domani vuole in campo scatena incendi come un fiammifero vicino a una tannica di benzina. Balotelli vattene, si poteva leggere in uno striscione appeso ai cancelli di Appiano Gentile. Ma mentre si rincorrono le notizie sul suo divorzio dall'Inter, servono le sue percussioni in campo, perché i compagni, dopo la magica notte col Barcellona, hanno bisogno di rifiatare. Ma le premesse non fanno ben sperare. Altri pensieri più confortanti a Roma, dove arriva la Sampdoria. Mentre Ranieri pensa a un'alternanza come punta unica tra Totti e Toni, Rossella Sensi difende il pupone dal ludibrio generale per il famoso gesto del pollice. Problemi anche in casa del Milan, impegnato col Palermo. Tengono banco le bandiere. Con Leonardo sul piede di partenza, nella panchina è in arrivo un altro dei pupilli di Arrigo Sacchi, quel Filippo Galli che con Tassotti e Baresi ha reso invincibile il Milan per un decennio. In quella difesa c'è anche Paolo Maldini, oggi indagato dalla Procura di Milano per presunti dribbling al fisco. Tempi duri per gli ex. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato delle difficoltà nella maggioranza. Il giorno dopo la rottura Berlusconi-Fini, Bossi oggi annuncia verso la fine dell'alleanza PDL-Lega. Il governo in Consiglio dei Ministri ha deciso di fermare le ruspe in Campania per abbattere le case abusive. E poi abbiamo parlato di calcio, perché Balotelli, come sapete, questa mattina è stato contestato dai tifosi ad Appiano Gentile. Applausi invece per Mourinho. Ripartiamo parlando di economia e in particolare della Grecia, che ha chiesto l'attivazione del piano di aiuti. Ci colleghiamo dunque con Atene e con il nostro Vittorio D'Aroldo. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a voi. Allora, cosa è successo questa mattina? Ha parlato Papandreou, era atteso anche un suo discorso in TV. Sì, esattamente. Il primo ministro era nel Dodecaneso, nell'isola di Castellorizzo, che è appunto l'isola del film dove venne girato Mediterraneo di Salvatores, e da lì ha fatto questo messaggio alla nazione, cioè ha annunciato che la Grecia non ce la può fare, perché la data del 19 maggio, dove scadono 11 miliardi di euro, è troppo elevata, e ha chiesto quindi l'attivazione del meccanismo di aiuto alla UE e al Fondo Monetario, mentre le due missioni appunto dell'Unione Europea e del Fondo sono proprio qui ad Atene per verificare appunto i conti. Vogliamo ricordare cosa prevede questo piano? Sì, il piano prevede un aiuto di 45 miliardi, 30 a carico dei 15 paesi dell'Eurozona e altri 12-15 a carico del Fondo Monetario Internazionale. A questo punto, con questi 45 miliardi, diciamo che la Grecia ha ossigeno per almeno 12 mesi e soprattutto ha dato un chiaro segnale, cioè il segnale di un paese che vuole continuare a entrare ad affrontare il mercato, quindi cioè tornerà sul mercato con l'appoggio, con questa rete di salvataggio che appunto Europa e il Fondo Monetario gli stanno concedendo. Ecco, Papandreou ha usato anche parole forti, no? Ha parlato addirittura di necessità nazionale, insomma sì. Questo piano è fondamentale in questo momento. Sì, ha parlato proprio di una nuova odissea in cui il primo ministro ha paragonato appunto la Grecia al mito di Ulisse, che deve gradualmente ritornare in patria e quindi deve ritornare nei conti a posto e nelle regole che erano state appunto non erano state rispettate, quelle che si riferisce appunto a quello del deficit che ancora una volta è stato rivisto ieri da Eurostat al 13.6 e non è probabilmente ancora finita, cioè ci saranno ancora probabilmente altre novità, altre purtroppo scoperte che faranno salire ancora il debito occulto. Quindi il primo ministro ha detto questo è il momento di riforme draconiane, probabilmente si riferiva al fatto anche che tra breve dovranno presentare delle misure per ridurre appunto le pensioni, rimettere in linea i conti pubblici. Grazie a Vittorio D'Arold da Atene. Invece qui siamo a Milano perché questa mattina la conferenza stampa dei tre operatori di emergency arrestati e poi rilasciati in Afghanistan. Irene Privitera. Sì, buongiorno, in mattinata qui nella sede di Emergency la conferenza stampa appunto a cui hanno partecipato il fondatore dell'associazione Gino Strada e i tre medici liberati domenica scorsa in Afghanistan, uno dei quali, Matteo Pagani, ha risposto alle domande dei giornalisti in videocollegamento da Roma. Unanime il sentimento di gioia per l'abbraccio con le famiglie, per quello che hanno definito lo straordinario affetto dimostrato da più parti ad Emergency, una gioia però velata, innanzitutto per la chiusura dell'ospedale di Emergency a Lashkargah, obiettivo dell'associazione umanitaria. In Italia hanno ribadito sia Strada che i tre medici e la riapertura della struttura. Marco Garatti ha ricordato che si tratta di un ospedale di buon livello e che fornisce attività sanitaria gratuita. I 214 dipendenti sono per ora senza lavoro, circa 80 pazienti sono stati in parte dimessi, in parte trasferiti nell'ospedale pubblico di Lashkargah. I tre medici si sono detti fieri di essere usciti a testa alta da una situazione che rischiava di coinvolgere negativamente l'immagine di Emergency. Hanno inoltre detto di voler tornare al più presto a lavorare in Afghanistan. E intanto, dopo la decisione della Procura di Roma di procedere contro ignoti per il reato di calunnia aggravata e continuata ai danni dei tre operatori, Gino Strada ha annunciato che querelerà Libero e il giornale. Ma sentiamo ora le parole di Marco Garatti a margine della conferenza. 10 anni che lavoro e lavoro con feriti di guerra. E l'idea che io possa aver fatto dei soldi cercando di causare e non di curare questi feriti è una cosa che proprio mi rode. Grazie ad Irene Privitera. E mentre si discute in Europa, Francia compresa, se consentire il burka nei luoghi pubblici, una storia che arriva proprio dalla Francia. Multata perché guidava con il velo islamico. E quanto è successo a una giovane donna di Nantes che si è vista infliggere una sanzione a causa del suo abbigliamento? Gli agenti che l'hanno fermata le hanno contestato infatti il suo niqab, il velo islamico che lascia scoperti solo gli occhi. Stando al verbale, riduceva pericolosamente il campo visivo della donna. Ora però il tutto finirà in tribunale, perché la donna si rifiuta di pagare la multa di 22 euro che le è stata inflitta. Ad ogni modo, questa vicenda ha un eco particolare in Francia. Arriva difatti nel pieno delle polemiche sul progetto di legge che intende vietare il velo islamico integrale in tutti i luoghi pubblici, un divieto tanto voluto da Parigi e da Nicolas Sarkozy quanto dal vicino Belgio, che non ha fatto in tempo ad approvarlo a causa della caduta del governo. Igor Fiatti, GR24 Il Sole 24 Ore. Benedetto XVI ha accolto le dimissioni del vescovo belga di Bruges, Monsignor Van Geluwe, il quale ha confessato in una dichiarazione ufficiale diffusa dalla stampa vaticana, insieme all'annuncio delle dimissioni, di aver abusato sessualmente di un giovane. E scende al 7° posto nella classifica fra le personalità mondiali più popolari il Papa. Barack Obama, il Dalai Lama e Hillary Clinton sono le tre personalità al top secondo il barometro World Leaders realizzato in 6 paesi. 15° Silvio Berlusconi, stabile rispetto all'anno scorso. Arriva oggi nei cinema italiani un film controverso e parla proprio di Chiesa. Anche una mobilitazione in rete ne aveva chiesto l'uscita. Per vederlo in Italia anche una petizione online che aveva raggiunto le 10.000 firme virtuali. Si era gridato alla censura preventiva per Agorà di Alejandro Amenábar, ma i diritti sono stati comprati dalla nuova Mikado di Franco Tatò. In tutti questi anni non ho fatto che studiare. Studiare senza mai avere una vita mia. E mi domando, a quale scopo? Non permetterò ad alcuna donna di insegnare o di dominare sull'uomo. È la storia di Ipazia, giovane donna sapiente, figlia del rettore della biblioteca di Alessandria d'Egitto nel IV secolo d.C., accusata di stregoneria. Nel film i cristiani sono fanatici violenti, assediano, invadono, lapidano, bruciano vive le persone. Io volevo fare una película sobre astronomía e decidí centrarme en la única mujer que había. Io volevo fare un film sull'astronomia, ho deciso di centrare il film sull'unica donna importante nella storia di questa disciplina, spiega il regista Alejandro Amenábar. Io sentia che tenía que contar esa historia fundamentalmente porque era una historia que no se había contado. Sentivo di dover raccontare una storia affascinante che nessuno aveva mai raccontato. Volevo parlare di un personaggio straordinario e della vicenda della biblioteca di Alessandria. Oggi i cristiani hanno bruciato un uomo. Io non voglio questa nella mia casa. Sulla mobilitazione in rete, Amenábar minimizza. Bueno, creo que ha habido un movimiento en internet que... C'è stato un movimento su internet e ringrazio tutti, ma non credo proprio ci sia mai stato sentore di censura in Italia. Anzi, il film esce qui ben prima che in altri paesi europei, spiega. La censura invece c'è stata altrove. La película sì che è stata chiaramente censurata in Egitto. Il film è stato chiaramente censurato in Egitto. È molto significativo, dice, che nel luogo in cui Pazia è nata non si possa raccontare la storia della sua vita, 2000 anni dopo. 2000 anni dopo. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Una notizia di poco fa, una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 sulla scala Richter è stata registrata questa mattina nella parte centrale del Cile, un Cile che, lo ricordiamo, era già stato colpito da un fortissimo terremoto in febbraio che aveva fatto centinaia di vittime. Torniamo in Italia, prima udienza a Torino per la prima class action italiana contro Intesa San Paolo. Oggetto del contendere le commissioni applicate dalla banca ai correntisti, giudicate illecite dall'associazione di consumatori e dal pubblico ministero Raffaele Guariniello, che ha visto crescere i sospetti dopo alcuni rilievi effettuati dall'autorità antitrust. Questa mattina si sono valutate in Camera di Consiglio l'ammissibilità dell'azione legale, che per ora è promossa dal solo presidente del Codacons, l'avvocato Carlo Rienzi. In seguito potranno però associarsi anche le migliaia di consumatori che hanno aderito sul sito dell'associazione. Chiediamo la massima pubblicità del processo, ha detto Rienzi, perché potrebbe riguardare potenzialmente 6-7 milioni di persone e vogliamo che il dibattimento vada al cuore del problema, ossia che vi sono clienti delle banche che hanno pagato più di quanto dovuto anche dopo la cancellazione della commissione di massimo scoperto. Diametralmente opposta alla posizione della banca, rappresentata dagli avvocati Cavalli e Tavormina. Le commissioni applicate, hanno spiegato, riguardano non privati ma imprese e quindi questa azione legale, che al momento riguarda il solo Rienzi, non ha ragione d'essere. Una causa analoga, sempre promossa dal Codacons ma questa volta contro Unicredit, inizierà a breve a Roma. Marco Ferrando, GR24, Sole 24 Ore, Torino. Ed ora un punto sul Festival Città Impresa. Venezia, Trieste, Rovereto, poi Schio. Il Festival delle Città Impresa gira per tutto il Nord-Est. Arrivato al terzo giorno sono già tanti gli appuntamenti organizzati per parlare di cultura ed economia. Lanciare tema principale di questa terza edizione la candidatura del Triveneto a Capitale Europea della Cultura nel 2019. Un grande evento, spiegano gli organizzatori, che potrebbe rinvigorire l'economia, connettere ancora di più le anime del Nord-Est. Intanto qui a Rovereto, terza tappa del viaggio di Radio 24 in giro per il festival, si parla di crisi e futuro. Ieri lo si è immaginato, diciamo così, in compagnia del filosofo ed economista francese Jacques Attali, che invita a reagire alla rivoluzione in corso reinventandosi. Stasera tappa a Schio nel Vicentino, Alessandro Profumo, AD di Unicredit, darà il suo contributo al dibattito. Paola Nania, GR24, Il Sole 24 Ore, Rovereto. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Pietro Lacorte. Ci risentiamo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.